e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti, buona giornata da Deborah Rosciani, versione Befana. Quest'oggi la faccio io la battuta prima che me la facciano gli ascoltatori, che me la facciate voi. Buona giornata, naturalmente auguri a tutti per questa giornata di festa, la giornata dell'Epifania del Signore, come peraltro questa mattina sottolineavano anche molti ascoltatori commentando la battuta di Oscar Giannino, che non ha indicato il santo del giorno perché è la giornata della festa della Befana. Naturalmente la Befana che arriva in tutte le case premiando i bambini, quindi doppiando tutti i doni che sono già arrivati con Babbo Natale. In questa puntata speciale dell'Epifania parliamo intanto qui a Cuore Denari di saldi. Noi siamo regolarmente in diretta fino alle 12, da domani vi ricordo che torno in coppia con Nicoletta, ma i mercati sono aperti e anche i negozi sono aperti per approfittare degli sconti praticati dai negozianti, molti sono in movimento in questi giorni, sconti che sono ufficialmente al via da ieri in tutte le regioni d'Italia. Allora questo sarà l'oggetto della prima parte della nostra trasmissione e chiaramente vi chiediamo subito che obiettivo avete. Raccontateci all'800 24 00 24 se siete in giro per saldi, quanto volete spendere, quanto state spendendo, avete già sforato il budget, vi eravate dati un budget, come vi state organizzando? Peraltro ovviamente lo leggiamo dai giornali di questa mattina, qualche polemica non poteva mancare, come la questione della partenza della stagione ufficiale dei saldi di martedì quest'anno e quindi già negozianti che sono in piena contestazione, soprattutto a Milano, perché c'è un bilancio che viene stilato questa mattina rispetto ad un anno fa, le vendite sarebbero in calo di circa un punto percentuale. Naturalmente il bilancio si riferisce sempre al primo giorno ufficiale dei saldi e vedremo se recupereranno qualcosa nei prossimi giorni, magari oggi in questa giornata di festa con i negozi aperti in molti recupereranno quello che non hanno speso ieri, quindi magari aspettiamo un attimo prima di arrabbiarci e vediamo poi a saldi conclusi se il bilancio potrà essere positivo. Non possiamo dimenticarci che con l'Epifania, come dicevo prima, arrivano anche i doni. I più classici sono i tre doni dei magi al bambino Gesù: oro, incenso e mirra, e poi c'è la calza della Befana. Allora, voi avete ricevuto la vostra calza, cosa ha contenuto, cosa contiene? Secondo un'elaborazione Coldiretti XE fatta proprio in occasione di questa ricorrenza, quasi la metà delle famiglie italiane, quindi circa il 45%, ha appeso dentro la propria casa la calza della Befana. Naturalmente speriamo che tutti abbiano trovato i doni che avevano chiesto, ma c'è di più. Sempre secondo Coldiretti, nella calza adulti e bambini hanno trovato, oltre ai classici dolciumi, anche fichi e prugne secche, nocciole, noci, segnali che hanno ascoltato per tutto l'anno Cuore e Denari, e soprattutto biscotti fatti in casa. Anche la vostra calza rispecchia questa indagine, oppure avete scelto di mettere altre cose? La Befana ha messo altre cose dentro, vi ha fatto trovare dell'altro. 800 24 00 24, cominciate a prenotarvi per raccontarci la vostra calza della Befana, alla quale daremo spazio dalle 11.30. Poi vediamo cosa conviene di più. Partiamo con un budget, ma è meglio che non glielo dico. 300 euro. Io devo comprare le scarpe a lui e poi se c'è qualche offerta compreremo qualcosa, se no no. Partiamo con un budget, ma è meglio che non lo dica, dice un consumatore fra tutti quelli che ieri il nostro Andrea Ferro ha interpellato ed intervistato all'outlet di Serravalle, un centro commerciale molto gettonato dai consumatori, dove già tutto l'anno vengono praticati molti sconti che raddoppiano, triplicano con l'avvio della stagione ufficiale dei saldi. La stagione dei saldi dunque è partita ufficialmente ovunque. Appunto ufficialmente, perché poi sappiamo bene che ufficiosamente, un po' in sordina, parte molte settimane prima con varie modalità, offerte promozionali, sconti praticati ai clienti più affezionati da parte di molti negozi. Ma a parte queste modalità, noi che cosa dobbiamo aspettarci in questo avvio di 2016? Dai saldi arriva qualche segnale che possa darci un'indicazione di ripresa economica rafforzata per il nostro paese? Un'analisi interessante la potremmo fare anche a giudicare dai dati sull'inflazione che sono stati diffusi ieri per quello che riguarda la voce abbigliamento e calzature. Da un mese all'altro c'è stato un leggero aumento, più 0,5%, quindi non sarebbe un settore in deflazione, ma noi lo chiederemo stamattina al nostro esperto, che intanto saluto, è Carlo Massoletti, vicepresidente di Federazione Moda Italia. Buongiorno Massoletti e ben ritrovato, con lei l'appuntamento è ricorrente o in questo momento dell'anno o all'inizio di luglio quando partono i saldi estivi, con lei ci sentiamo molto frequentemente. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E buon anno naturalmente. Altrettanto. E saluto anche, ringrazio, gli faccio gli auguri di buon anno a Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, che non sentiamo da un po' e lo abbiamo ripristinato questo legame con lui in occasione della stagione dei saldi. Martinello, buongiorno presidente. Eccomi qua. Grazie, eccoci qua. Tanto a voi, auguri. Buon anno anche a lei. Allora, ieri alcuni colleghi di alcune agenzie riferivano di poche code fuori dai negozi di Milano, anche perché molti punti vendita, lo dicevo prima, lo ricordavo prima, avevano già organizzato prima della fine dell'anno dei presaldi per i clienti più affezionati. Le code, vi leggo qualche agenzia, quelle che ci sono state, si sono formate soprattutto all'interno dei negozi e delle grandi catene come Zara, H&M, H&M, coda classica davanti ad Abercrombie & Fitch, anche al punto vendita di Michael Kors, i brand giovanili più noti, io li ho citati, ho fatto un po' di pubblicità, ma tanto un po' per raccontare anche quello che hanno detto i colleghi nelle ultime ore. In genere associamo la stagione dei saldi agli acquisti scontati di capi di abbigliamento, scarpe, vestiario in genere, poi sappiamo che in questi giorni in realtà tutte le vetrine di ogni tipo sono allestite di merce con i prezzi ribassati, quindi non è detto che questo sia il momento giusto per comprare solo il cappotto nuovo, gli stivali nuovi, ma magari anche un elettrodomestico, il divano, chissà quale altro articolo. Ma detto questo, la stagione dei saldi è associata all'abbigliamento, al vestiario, alle scarpe. Che cosa fate voi? Che budget avete sul piatto? 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta e raccontarci un po' che cosa state facendo. Massoletti, allora cominciamo con lei, cosa prevedete in questi giorni? Poi le chiederò anche un commento su questa presunta polemica di Milano sulla partenza dei saldi di martedì, ma per voi un giorno non vale l'altro? Ma no, in realtà non è proprio così, nel senso che la polemica nasce dal fatto che l'anno scorso i saldi erano partiti nel giorno più classico per il consumo, che è il sabato, e avevano generato, diciamo, un buon movimento. Quest'anno sono partiti in un giorno, martedì, atipico nel centro della settimana, dovuto al fatto che comunque è la vigilia di una festa, e pertanto si presume che questo abbia danneggiato gli incassi. È molto difficile creare una statistica di questo tipo, è evidente che non si può ragionare in termini di successo e insuccesso dei saldi se non aspettando qualche giorno e cercando di analizzare un periodo un po' più consistente, sicuramente non la prima giornata. Lei allora quindi ci sta dicendo che non è significativo ossessionarsi sulla prima giornata, però è tutto sommato per molti di voi è molto importante fare un primo test già nella giornata di partenza ufficiale, o no? Certo, assolutamente, infatti noi le statistiche le abbiamo fatte, c'è stata una leggerissima contrazione nell'ordine statisticamente parlando dell'1%, però davvero, ripeto, sarebbe come cercare di giudicare un campionato di calcio dopo le prime tre partite. Dopo le prime tre partite non si può stabilire chi vincerà lo scudetto, allo stesso modo occorre aspettare qualche giorno per stabilire se i saldi hanno avuto più o meno successo. Direi che comunque il risultato dell'1% solo di contrazione, tenendo conto della giornata tipica, direi che è un risultato che ci mette in condizione di immaginare che l'obiettivo dell'aumento del 3% di fatturato globale sui saldi potrà essere raggiunto. Quanto prevedete in termini di scontrino medio che le famiglie italiane appunto spenderanno? 95 euro è l'indicazione che viene data stamattina da Repubblica per quello che riguarda, ribadisco ancora, la prima giornata di ieri sulla città di Milano, ma estendendo un po' la previsione sul tessuto, sull'intero tessuto nazionale. Massoletti, quanto potranno spendere gli italiani quest'anno? Che cosa vi aspettate? Ma guardi, noi abbiamo stimato un complessivo movimento complessivo per i saldi di 5 miliardi e 400 milioni di euro, e questo poi rappresenta un acquisto medio per famiglia di 346 euro. Ecco, questo è, diciamo così, il quanto noi ci si aspetta, con un acquisto medio a persona di circa 148 euro. Poi anche queste francamente sono stime che lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, direi che va sempre misurato un pochettino a consuntivo questo dato. Certo. Noi comunque ragioniamo in termini di incremento del 3%, questa è la nostra aspettativa. 800 24 00 24, avete il numero verde a vostra disposizione per intervenire in diretta. È già pronto Salvatore da Catania. Prima di sentire Paolo Martinello, volevo segnalare all'ascoltatore Mauro da Bergamo che ci scrive su WhatsApp: la Carbone non c'è perché è finita in qualche calza. Mauro, come ho già detto prima, come ho già detto più volte in questi giorni, ci siamo alternate perché anche noi abbiamo ogni tanto bisogno di fermarci. Sono stata a casa qualche giorno a Natale, Nicoletta è a casa qualche giorno in questi giorni, ci alterniamo. Da domani la coppia si ripristina regolarmente. Io devo dirle la verità, non vedo l'ora, perché condivido molto volentieri con lei questo impegno in diretta ogni giorno. Allora, detto questo, sentiamo Salvatore da Catania e poi andiamo a Paolo Martinello, perché Altro Consumo ha diffuso, come hanno fatto quasi tutte le associazioni dei consumatori, una lista di raccomandazioni per scegliere bene cosa comprare e per far valere i propri diritti in caso di problemi. Devo dire che però questa lista di raccomandazioni anche le associazioni dei commercianti le stilano e le hanno ben presenti, molto correttamente. Detto questo, però, qualche volta qualche piccola disavventura capita, come quella per esempio che succede a chi comprando un capo in saldo magari vede un po' di resistenza da parte del commerciante a cambiarlo oppure a pagarlo con lo strumento elettronico di pagamento, un altro tema che ritorna in maniera ricorrente. Vedremo quali sono le situazioni più diffuse. Intanto sentirei Salvatore da Catania. Buongiorno Salvatore, buon anno. Buongiorno, buon anno a tutti, grazie per avermi dato questo spazio. Io credo di fare l'assist al dottor Martinello, perché appunto sono stato in un negozio perché volevo comprare un capo d'abbigliamento in saldo. Siccome indago spesso, io lavoro nel commercio, sono il direttore di un negozio di cui non faccio il nome, ho alzato l'etichetta, ho visto che il vecchio prezzo del prodotto era 50 euro, in saldo veniva 52 perché il prezzo storico era 75. Hanno alzato il prezzo, quindi sembrava uno sconto molto invitante, ma costava più di quanto costava prima. Che cos'era, Salvatore? Ecco. Una maglia? Sì, era una maglia, però non dico. No, no, va bene, era per capire appunto se Massoletti avesse, tra virgolette, titolo a parlare, perché l'abbigliamento è il suo campo, quindi magari che non fosse dell'altro. Non perché poi era non un abbia... capo di abbigliamento di un'azienda molto in voga, molto giovanile. Però purtroppo io per la formazione professionale so che spesso le commesse per sbrigarsi, perché abbiamo poco tempo per preparare i saldi, alle volte anche la sera prima, mettono il prezzo sopra senza togliere quello prima, io lo so, ho sollevato il nuovo prezzo e ho visto che prima costava meno del prezzo in saldo. Grazie Salvatore. Allora, noi naturalmente sappiamo molto bene che... sarà anche una pratica che si può verificare, insomma, chiaramente Massoletti, non mettiamo in croce il mondo dei commercianti perché siete tutti assolutamente corretti, leali ed onesti, però poi qualche caso si verifica probabilmente anche un po' per compensare magari quel business che non c'è stato prima della partenza dei saldi, perché sappiamo che è sempre più gettonata la scelta degli italiani di aspettare proprio questo momento prima di fare l'acquisto impegnativo. Questo sta succedendo soprattutto in questi ultimi anni di crisi. Commentiamo questo caso subito dopo il traffico. Cuore e denari. Quando ero bambina esistevano prezzi pieni e i saldi di mia madre. A prezzo pieno compravi cose vistose e sgargianti che duravano 3 settimane. Ai saldi di mia madre cose marroni che duravano per sempre. È il classico I Love Shopping che naturalmente mettiamo sempre quando parliamo di questo argomento: acquisti, shopping e soprattutto tempi di saldi. 800 24 00 24 per condividere con noi la vostra esperienza di pratica degli sconti in questi giorni. La stagione ufficiale è partita proprio ieri con determinate aspettative da parte del mondo del commercio, ma anche dei consumatori che magari prima di Natale si sono fatti un po' un giro per negozio negozi per individuare quel capo di abbigliamento, quella calzatura che avrebbero voluto comprare, ma magari si sono detti rimandiamo di qualche giorno, aspettiamo che partano gli sconti, salvo poi incappare in qualche sorpresa come quella che è capitata a Salvatore da Catania. Paolo Martinello, nella vostra lista di raccomandazioni per scegliere bene cosa comprare e far valere i propri diritti in caso di problemi, c'è anche il caso indicato dal nostro amico siciliano? È proprio il primo consiglio è di fare quello che ha fatto l'ascoltatore. Ormai è purtroppo tardi, bisognava farlo nei giorni scorsi, ma il primo consiglio più importante è quello di verificare prima dell'apertura dei saldi sia i prezzi sia i prodotti, perché è chiaro che l'inganno può stare può stare sia nell'alzare il prezzo nel momento in cui viene applicato lo sconto del saldo, sia nel mettere in vendita prodotti che sono quelli magari della stagione precedente o che erano rimasti in magazzino. Devo dire che queste due pratiche non sono più così frequenti, una volta avevamo molti più casi, oggi i controlli sono maggiori, ma soprattutto oggi i consumatori sono sicuramente molto più attenti che in passato, quindi c'è un sano controllo incrociato, diciamo così. Ricordiamoci che chi commette questo tipo di comportamenti rischia molto. Oggi anche il sistema del codice del consumo sanzionatorio rispetto a queste pratiche commerciali è molto più severo che in passato, quindi parliamo di possibili sanzioni di centinaia di migliaia di euro, quindi credo che davvero convenga poco anche ai commercianti tentare di imbrogliare in questo modo. Globalmente questo tipo di casistica secondo me incide meno che in passato, ma è sempre possibile che ci sia. Quindi il primo consiglio è proprio quello lì, di controllare precedentemente all'apertura dei saldi qual è la situazione dei prodotti e dei prezzi. Certo, quello che dispiace è Massoletti, che anche voi che rappresentate poi tutti i commercianti d'Italia, quando sentite questi casi naturalmente vi indispettite, perché fate una grande azione, no, per cercare di convincere tutti i consumatori della correttezza commerciale su tutto il territorio, poi chiaramente basta un caso un po' per inficiare tutto il comportamento degli altri. Detto questo, ci dia lei anche qualche suggerimento per non incappare in situazioni di questo tipo. Secondo lei vale sempre la regola del farsi un giro nel negozio che ci piace prima che partano i saldi e controllare bene poi qual è il prezzo originario del bene che ci interessa e valutare successivamente se lo sconto che ci viene praticato è reale e poi è quello che ci interessa, appunto. Sì, ma direi che questa è una regola fondamentale. Peraltro i consumatori che sono, ha fatto bene a ricordare il dottor Martinello, direi molto tosti adesso, sono preparati, non è più il consumatore ingenuo agli anni 60 che può acquistare qualsiasi cosa. Oggi sono preparati, fanno il loro giro, verificano i prezzi e poi vanno dal negozio, vanno presso il negozio che effettivamente è quello che dà maggior fiducia ed è quello presso il quale hanno visto il prodotto. Pronto? Sì, sì, ci siamo. Hanno visto il prodotto che a loro interessa e che sul quale evidentemente possono verificare il prezzo e lo sconto. Certo. Devo anche dire che se devo dare un suggerimento al consumatore di Catania, a Salvatore o comunque a chi incorre, diciamo così, in questo tipo di problematica, il primo suggerimento è quello di verificare col negoziante stesso che magari non ci sia banalmente un errore materiale, perché a volte nella fretta, diciamo, ha fatto bene Salvatore a ricordarlo, nella fretta di prestare i capi, il commerciante magari può commettere un banalissimo errore. Nel caso di specie, se questo errore non c'è stato, questo negoziante quantomeno avrà perso Salvatore come cliente, e questo è un danno direi molto grave per uno che fa il nostro lavoro. Infatti. Presidente Massoletti, no, tra l'altro invece un'altra cosa che ha incuriosito me ieri pomeriggio girando per Milano, ho dato un po' un'occhiata ai negozi vicino a casa mia, un negozio di scarpe abbastanza grande, soprattutto di articoli sportivi, tutto al 20% di sconto con tutti i prezzi ben esposti di ogni tipo di calzatura, ma tutti i prezzi rotondi, 80, 90, 100 euro, 110, anche questa mi sembra una cosa un po' strana, ma è possibile che possa succedere questo? Poi io non conosco il mondo del commercio dal dietro le quinte, però anche là 20% su prezzi totalmente rotondi su tutti. Sì, beh, guardi, a volte succede nel fare un prezzo che indicare una percentuale con i decimali o indicare un prezzo con i decimali diventerebbe un problema. Pertanto si cerca sempre di fare un arrotondamento. Generalmente questo arrotondamento, anzi dire nella totalità dei casi, è sempre a favore del consumatore, perciò magari alla fine se il prezzo fosse 80 euro e 20 centesimi viene arrotondato 80 euro e 20 centesimi, chiaro, resta uno sconto ulteriore. Ecco, questo è il comportamento che molti negozianti mettono in campo proprio per evitare di star lì a misurare coi centesimi anche il resto o a avere dei prezzi che non sono prezzi chiari. 800 24 00 24, aspettiamo ancora i vostri interventi e fra un po' con Laura Vanossi appunto sceglieremo alcuni degli ascoltatori che sono pronti a commentare con noi questa partenza della stagione dei saldi invernali 2016. Ma c'è un altro tema che voglio cominciare a commentarlo con Paolo Martinello di Altro Consumo, perché ogni anno viene messa in croce appunto la categoria dei commercianti, almeno coloro che praticano i cosiddetti sconti anticipati. Addirittura Repubblica stamattina li chiama gli sconti sottobanco, che sono iniziati fra fine novembre e inizio dicembre, al punto tale che la polizia locale, monitorando un centinaio di negozi, ha elevato addirittura 85 multe per saldi anticipate o vendite promozionali fuori stagione. Allora, adesso cercheremo di capire perché addirittura chi è un imprenditore privato, un commerciante, vuole fare degli sconti ai suoi clienti, per quale motivo deve essere addirittura multato, qual è la violazione, per chi non la capisse. Però Martinello, in un frangente economico come quello che l'Italia vive ancora, in cui i consumi stagnano, in cui il governo si arrabatta come può anche in legge di stabilità a mettere delle iniziative per erogare dei bonus di vario tipo alle famiglie proprio per rilanciare i consumi, nel momento in cui il mondo del commercio ti viene incontro e pratica degli sconti in un momento non ufficiale, diciamo così, ma qual è il problema? Il problema è che la legge sui saldi è proprio, come dire, quella che ha descritto lei, è la faccia oscura dei saldi. Cioè, che cosa sono in fondo i saldi? I saldi non sono altro che una data a partire dalla quale tutti i commercianti sono autorizzati a usare questo vocabolo, che ha un forte appeal evidentemente dal punto di vista commerciale, e sono regolamentati per legge. Questo comportamento uniforme, la data, la famosa polemica che ogni anno c'è sulla data in cui si può iniziare a fare i saldi, deriva da questo, dal fatto che c'è una legge che dice che a livello regionale la pubblica amministrazione, nemmeno i commercianti, la pubblica amministrazione decide qual è la data ufficiale di apertura. Naturalmente la legge che prevede questo tipo di meccanismo prevede anche dei divieti, come ovvio che sia, altrimenti non avrebbe senso. E il quadro che ne viene fuori porta a questo paradosso, che a mio parere è assolutamente inaccettabile ed è uno dei motivi per cui da anni diciamo che la regolamentazione dei saldi andrebbe profondamente rivista e andrebbe lasciata molta più libertà ai commercianti di decidere a seconda della zona, a seconda della clientela, a seconda delle loro scelte commerciali, quando farli e come farli. Oggi non è così e la conseguenza davvero paradossale, davvero incredibile, è che chi dovesse iniziare dei saldi più o meno in sordina, ma insomma in qualche modo facendo leva su questa politica commerciale in anticipo rispetto alla data fissata per regolamento, commette un'infrazione sanzionabile. Quindi arrivano i vigili che danno la multa al commerciante che ha concesso uno sconto in saldo al cliente prima della data. Sa che a me sembra proprio incomprensibile. Io sarò io limitata, non lo so, ma io non la capisco. Sono d'accordo, però è nel sistema dei saldi. Guardi, i saldi, l'antitrust più volte è intervenuta su questo argomento, perché in fondo se non ci fosse una legge che autorizza questo tipo di comportamento uniforme e allineato di politica dei prezzi, sarebbe un comportamento anticoncorrenziale. In realtà, per dirla in modo un po' grezzo e brutale, la legge sui saldi è un comportamento anticoncorrenziale autorizzato per legge. Questo è quello che è. Per questo secondo lui andrebbe rivista e andrebbe appunto lasciato libertà ai singoli, non alle categorie. Carlo Massoletti, Confcommercio, che cosa dice? Ribadirete naturalmente le vostre considerazioni, però forse proprio alla luce anche di questa confusione che su questo punto ogni anno si genera, evidentemente anche voi dovrete condividere il fatto che forse la legge appunto va rivisitata un attimo, o no? Che disciplina? Guardi, Sicuramente è uno strumento che andrebbe perfezionato, però voglio ricordare anche che ci sono norme magari anche più complesse e più articolate, scritte e descritte in numerosi articoli di legge che vengono eluse regolarmente. Pensi solo alle norme che regolano, diciamo così, gli aspetti fiscali. Noi siamo un paese ad alta evasione, purtroppo, e nonostante ci siano delle norme feroci e rigide. Nella fattispecie, però, tornando, diciamo così, al discorso dei saldi, in realtà i saldi sono un momento in cui il negoziante mette in vendita ciò che è rimasto dalla stagione che si sta per concludere, e lo mette a prezzo vantaggioso per il consumatore, in modo tale, diciamo così, da fare un po' di pulizia e di poter disporre del proprio magazzino, del proprio negozio, per mettere in vendita i prodotti nuovi, certo, della stagione che arrivano da lì a poco. È evidente che questa è un'operazione che si fa in fondo alla stagione, non può essere fatta prima. L'operazione prima diventa una vendita promozionale, allora sì, diventa davvero solamente una leva di marketing e non più un'azione. No, ma diciamo, io diciamo come complessivamente la questione posso anche capirla. Detto questo, che addirittura un commerciante che si è comprato la sua merce ha dei pantaloni che costano 100 euro, io li vado a comprare, lui, siccome sono una cliente fedele, me li metto 80, arriva la polizia municipale e lo multa perché mi ha fatto lo sconto. Io questo, presidente Mazzoletti, lo capisco un po' a difficoltà, non trova. In effetti non è così, perché il divieto è quello di promuovere, diciamo così, poi all'interno del punto di vendita, francamente, nei rapporti interpersonali uno può fare quello che desidera. Se lei viene da me a acquistare un prodotto prima dei saldi, è evidente che io poi non le dico torni tra 3 giorni, perché poi, cioè, non ti posso dire, te lo posso già scontare, favorita, ma questo sta nei rapporti interpersonali e nell'ordine proprio anche, certo, direi, della gentilezza verso i propri clienti. Allora, abbiamo messo sul piatto tantissimi argomenti molto interessanti, allora se avete pazienza ci sentiamo il giornale radio, poi ritorniamo a commentare questo avvio della stagione 2016 dei saldi invernali. Chiedo pazienza ad Aurelio da Roma, senta il giornale radio con noi, poi la sento subito dopo. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta, avete sentito già nelle anticipazioni al termine del giornale radio i temi che stiamo affrontando questa mattina a Cuore e denari. Peraltro, sentite che notizie ho trovato. Avere chiaro cosa cerchiamo, dare uno sguardo approfondito a ciò che abbiamo già nell'armadio, fissare un budget, fare una ricerca preventiva online su prezzi e capi desiderati, ma anche, per i più compulsivi, non portare con sé le carte di credito in modo da non avere da spendere oltre quanto già fissato e sfuggire agli scontri che possono crearsi nei negozi quando c'è molta gente e contendersi uno stesso oggetto del desiderio. Questi, pensate, sono i consigli che sono stati elargiti dall'Associazione Europea per il Disturbo da Attacchi di Panico per sopravvivere ai saldi e trasformarli in un momento felice e non stressante. Bene, questa mattina ho dovuto leggere anche questa, chissà che cosa ne pensano i nostri ospiti di oggi. Carlo Mazzoletti, vicepresidente di Federazione Moda Italia, il mondo del commercio e dell'abbigliamento che aderisce a Confcommercio, che fa capo a Confcommercio, e poi Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Mazzoletti, forse più che i consumatori, quando parte la stagione dei saldi ad essere stressati siete un po' voi, con tutti i problemi che dovete affrontare, non ultimo anche la visita della polizia municipale che vi contesta se partite un po' prima. Ma guardi, allora mi fa un po' sorridere questa cosa. Anche a me, devo dirle la verità. In effetti, no, probabilmente è così, ecco, però viva Dio, i saldi devono essere, sono un momento di consumo, deve essere una cosa gioiosa, una cosa felice, cioè la gente deve approfittare dei saldi con cuor leggero, con consapevolezza, ma a cuor leggero, insomma, non è una roba così impegnativa da assumere un aspetto così patologico, non lo è assolutamente, insomma, abbiamo voluto sorridere anche un po'. Evidentemente però, presidente, se c'è chi si scomoda a fare anche in questo caso un'altra lista di suggerimenti per vivere con serenità questo momento, qua la dice lunga su che tipo di stagione anche emotiva stiamo vivendo. Detto questo, andiamo a sentire Aurelio da Roma, a cui ho chiesto di aspettarci un po'. Aurelio, benvenuto. Aurelio, buongiorno a tutti. Buongiorno, sì. Buon anno intanto. Sì. Grazie anche a lei e a tutti gli ospiti. Volevo soltanto rappresentare quello che mi è successo ieri. Ieri nel pomeriggio ho fatto una passeggiata con le mie figlie al centro di Roma per comprare degli abbigliamenti. Ormai le ragazze sanno benissimo in quale negozi andare per fare questi acquisti. Ci eravamo già andati prima delle feste e abbiamo comprato alcune cose. Ieri c'era una gran confusione. Insieme a tanto abbigliamento a saldo, c'era abbigliamento anche non a saldo, mischiato insieme a tutto quanto. I prezzi erano normali ed erano anche abbigliamento invernale, per questo non era una nuova collezione, nel senso del 2017, dice lei, esatto, infatti, oppure dell'autunno 2016. Bene, poi quando vai in cassa a pagare ti trovi che il prezzo non è scontato. Non è il massimo, un po' di confusione si crea. Allora Aurelio, anche questo è un tema importante, so che anche su questo punto i commercianti ci tengono molto a fare chiarezza. Massoletti, ritorno da lei, poi rivado anche all'Associazione dei Consumatori. Lei spende sempre tanto fiato con noi nel ribadire che la merce deve essere ben distinta in negozi. In questo momento i saldi sono praticati solo sulla merce che non è stata venduta, quella della stagione appunto invernale 2015-2016. Il caso di Aurelio da Roma, come lo vogliamo commentare? È possibile che ci sia in un negozio un angolo dedicato all'abbigliamento della medesima stagione che però non sia scontato, anche se è partita la stagione ufficiale dei saldi? Un negozio può farlo tranquillamente? Certo che può farlo, l'importante è che siano ben distinti dai prodotti che sono a saldo. Esistono dei prodotti che noi definiamo i cosiddetti continuativi, che hanno un mercato che è aperto tutto l'anno sostanzialmente. Un paio di jeans, se per fare un esempio, è un paio di jeans indipendentemente che sia estate o inverno, pertanto magari quello è un prodotto che, se è un jeans classico, non è soggetto al saldo, non è soggetto alla promozione e resta a prezzo pieno anche durante i periodi di saldo e non viene tolto dalla vendita. L'importante è che sia posizionato in maniera differente. Chiarissimo. Quindi insomma Aurelio dice c'era molta gente in questo negozio, c'era molta confusione, ma da quello che capisco in realtà questa merce era abbastanza evidente che non fosse scontata. Non ho capito se invece si è trovato la sorpresa al momento appunto del pagamento alla cassa. Detto questo, insomma, se avete questo dubbio che non ci sia un comportamento corretto al 100% su questo, segnalatelo direttamente al commerciante, oppure anche lì, come dice Massoletti, non fate l'acquisto perché la perdita peggiore per un commerciante è quella del suo cliente. Andiamo ad Antonio da Verbania. Antonio, benvenuto. Che è un caso un po' simile a quello di Salvatore da Catania. Antonio, eccoci. Mi sembra proprio così, guardi. Io prima delle feste di Natale mi ero recato a un centro commerciale qua in zona e niente, avevo visto dei jeans, dei pantaloni, anche di marca conosciuti, e in questo caso ho detto beh, aspettiamo i saldi e dopodiché vediamo. In effetti ieri mi sono recato allo stesso centro e ho trovato una brutta sorpresa, c'era su il cartoncino con sconto del 50%, ma i pantaloni costavano lo stesso 17,50 euro, ecco. Allora, senta Antonio, lei è assolutamente sicuro del prezzo che aveva visto prima? Io un pochino devo fare anche il grillo parlante, no? Mettere anche un po' in dubbio, perché non è che i consumatori siano sempre così le vergini assolute. Ecco. Per quello è un centro che io poi cioè, frequento, diciamo, non proprio abitualmente, ma tre volte alla settimana ci passo dentro, per cui c'è il prezzo, me lo ricordo benissimo. Va bene. Antonio, che cosa le devo dire? Cosa ha fatto? Li ha presi questi pantaloni? Non ha lasciato? Lì. Ma li ho lasciati lì perché erano tutti, sembravano tutti così, ma infatti non solo io ma anche altre persone, anche una signora che conosco mi fa, ma strano, come mai? Cioè dovevano essere in saldo ma hanno lo stesso prezzo di prima di Natale. Esatto, solo che c'è il cartello dove c'è scritto che sono saldati al 50%. Sì, c'è scritto 50%. Antonio, vabbè. Grazie. Allora Martinello, adesso le racconto questa, con la quale faccio arrabbiare anche Massoletti e molti altri commercianti che ci stanno ascoltando, perché stanno contestando che stiamo dando addosso ai commercianti, ma per carità del cielo, è ovvio che diamo spazio alle questioni problematiche. Il territorio io ho trovato sconti regolarissimi. Ieri un negozio che mi piace molto vicino casa aveva già ieri quasi tutto al 40%, ma la merce è di straqualità, per cui non ho nulla da contestare su quel comportamento, sul comportamento di nessuno. Diamo un po' di spazio stamattina a quelle situazioni problematiche dalle quali dobbiamo imparare a difenderci, e so che anche Massoletti sarà d'accordo con me, ma Sul tema di questo sconto un po' farlocco, qualche anno fa in una medesima trasmissione un ascoltatore mi raccontò che cosa fa lui prima che partano i sconti, i saldi, va a fare la fotografia degli scontrini a prezzo pieno e poi si ripresenta al negozio nel caso che questo non si comporti appunto tanto bene, si comportasse appunto come quelli che ci hanno raccontato, lui mostra la fotografia del prezzo pieno, per cui non si può. Adesso non è che dobbiamo invitare tutti quanti a fare nella stessa modalità. Certo che però è un comportamento che un po' scoccia, no? Quello che abbiamo sentito raccontarci dagli ascoltatori, e dobbiamo ribadire le cose di prima. Certo, beh, questo è un comportamento, diciamo, è il consiglio che davamo prima portato all'estremo, nel senso che il controllo viene fatto non solo visivamente ma anche però guardi che questo è quello che fa la nonaria, la nonaria nelle città dove vengono fatti i controlli seriamente e non tanto per sanzionare il commerciante che anticipa di qualche giorno il saldo più che comprensibilmente, ma soprattutto per sanzionare le scorrettezze nel corso del periodo dei saldi, la nonaria in alcuni casi fa proprio questo, anzi dovrebbe fare questo, forse più che il singolo consumatore il controllo da parte dei sistemi pubblici dovrebbe essere anche questo qua. Chiaro che non è una cosa che si può fare su tutti i negozi, sarebbe impensabile, però credo che sia un modo per far vedere che i consumatori non possono essere presi in giro. No, infatti, tra l'altro, dopodiché ci tengo anch'io a dire, come dicevo già prima Mazzoletti, che in effetti, attenzione, i saldi non significa avere i saldi su tutta la merce presente nel negozio, quindi è vero che ci può essere la delusione del consumatore che dopo aver individuato il capo d'abbigliamento, il prodotto che gli interessa, si presenta al momento dei saldi dove sulla vetrina c'è scritto tutto o magari i saldi al 50% e quel capo non viene venduto in saldo. È borderline questo comportamento, perché ripeto, è legittimo che una parte dei prodotti non sia in saldo a patto che sia chiaro prima di entrare nel negozio quali sono. Mi pare che la legge preveda proprio la separazione anche visiva dal punto di vista delle vetrine, il fatto che i prodotti non in saldo devono essere nettamente separati dagli altri e non confondibili. Allora, tra l'altro c'è un'ascoltatrice, Maria Antonietta, che saluta affettuosamente, perché Maria Antonietta, io le devo confessare che ho fatto il suo stesso pensiero, in ogni caso ascoltando il caso dell'ascoltatore di prima che si lamentava del fatto che questo pantalone già costava 17,50 euro, poi insomma questo sconto è stato fatto in maniera effettivamente, Maria Antonietta dice, ma che sconto vuole su un pantalone da 17,50 euro, Mazzoletti? Certo che glielo regalino praticamente. No, ma infatti sono proprio stupito. Buttiamola un po' nella risata, ecco. Che dice? No, è un prezzo decisamente già molto basso, tant'è infatti che mi viene il dubbio che magari il consumatore si sia sbagliato a leggere o che abbia confuso i prodotti. Questo è il motivo per cui la prima verifica da fare è con il rivenditore stesso, perché adesso, oggettivamente può esserci anche un errore materiale, capire. A volte possono succedere gli errori, l'importante è non farli diventare un caso, perché poi sono cose che magari con due parole si risolvono rapidamente, esatto, con una risata e molto facilmente. Allora, senta, Presidente Mazzoletti, mi interessava un altro aspetto da affrontare con lei. Noi ne abbiamo parlato ieri, c'è il nuovo limite del contante, no? Adesso si potrebbe anche lo scontrino medio in un negozio di abbigliamento è molto più modesto, quindi insomma che adesso si possa pagare in contanti per un importo anche superiore 1.000 euro fino a 3.000 euro magari per voi non è rilevante, ma se arriva qualche buon acquirente magari da Mosca ci interessa, no? Che abbia tutta questa disponibilità finanziaria da mettere sul piatto. Per voi questa è una buona notizia? Sì, direi che lo è sicuramente, l'aspettavamo. Diciamo che io sono un po' stupito quando leggo diciamo di questa polemica legata al fatto che si favorirebbe l'illusione, l'evasione. Anche qui io credo che gli strumenti per contrastare l'evasione e l'illusione ce ne siano a bizzeffe, l'importante è che poi siano utilizzati, non è certamente sul contante che gira nei negozi che si possono risolvere i problemi dell'evasione e dell'illusione in Italia. Diciamo che è un provvedimento che permette al consumatore di essere un filino psicologicamente più sciolto nel momento in cui si accosta, quando nel momento in cui va in un negozio si accosta diciamo al consumo, cioè l'idea che non ci sia appollaiato sulla propria spalla qualcuno che osserva quello che il consumatore sta facendo nel momento in cui va nei negozi. È pur vero, diciamo, che si tratta di cifre molto importanti, ed è altrettanto vero che probabilmente riguarda solamente alcune tipologie di prodotto e alcuni tipi di consumatore. Però ecco, io lo interpreto come una cosa assolutamente intelligente e in linea con quello che sta succedendo e che succede in tutti i paesi del mondo. Mazzoletti, senta, allora, merce in saldo, il negoziante che contesta il pagamento con il bancomat o la carta di credito ha ragione, può farlo? Voi come la vedete questa faccenda? No, direi che il negoziante che ha esposto i talloncini delle carte di credito per ciò che è convenzionato con il sistema bancario per le carte di credito è assolutamente obbligato ad accettarlo, la carta di credito, perciò fa bene il consumatore a richiedere che questo pagamento possa essere effettuato in quella maniera. Peraltro nelle indicazioni che le stesse associazioni distribuiscono ai propri associati questo è scritto chiaramente. E per quello che riguarda invece il cambio della merce, perché anche qua c'è grande confusione, sempre c'è chi sostiene che la merce in saldo se la si vuole, se il capo non va bene, se ci si ripensa quando si è a casa, eccetera, si hanno pochissimi giorni per cambiarla. C'è chi invece sostiene che il tempo è il medesimo dell'acquisto di un capo di abbigliamento in una stagione regolare. Quali regole, Mazzoletti, che la categoria ci dà, quali sono? E guarda, non è che la norma sia differente tra il momento del saldo e il momento in cui la merce non è in saldo. Allora, diciamo che se il prodotto è difettoso esistono tutte la normativa per cui il negoziante è obbligato entro un certo periodo di tempo e con la rappresentazione evidente dello scontrino che testimonia l'acquisto presso il punto di vendita a cambiare il prodotto. Ma se il prodotto non è in saldo, è una facoltà, cioè non è difettoso, è una facoltà del commerciante quella di procedere al cambio del prodotto o meno, una facoltà che evidentemente in un periodo di vendita normale è ricompreso nel prezzo perché è un servizio aggiuntivo. In un periodo di vendita saldo, essendo il prezzo già molto molto ridotto, magari è un servizio che qualche negoziante non fa volentieri, però ecco, è una facoltà questa del cambio del colore, della taglia, eccetera. Esatto. Io credo chiediamo che prima parte... per non saperne leggere né scrivere, come si dice, no, se il commerciante ci dà magari un limite un po' più rigido sulla possibilità di cambiamento, possiamo di conseguenza decidere se fare l'acquisto o meno. Certo. Forse certo, ci conviene fare questo. Ma magari poi il consumatore stesso lo chiede al momento in cui fa l'acquisto, posso cambiarlo, se cambio idea, quali sono i tempi. Sì, magari è un regalo, devo farlo provare a qualcuno che non è lì con me in quel momento, per cui un po' più di elasticità mi sembra il minimo. Allora, vi faccio sentire cosa ci racconta, anzi qual è la considerazione di Anna da Roma. Anna, buongiorno, ha già speso qualcosina? Buongiorno, no, non ho speso niente. E non procede neanche? No, non procedo. Io invece nel pomeriggio ho delle azioni, ho delle intenzioni un po' belli, che sa che le dico che qualcosina oggi me lo regalo. Oggi lo prendo. Oggi ecco. D'altronde è la nostra festa, Anna, la festa delle Befane, per cui perché no, perché noi non ci dobbiamo fare qualche regalo? Lo so, ma non vedi, lei ha detto bisogna aprire gli armadi e vedere quello che c'è dentro. Bravo, ci abbiamo un sacco di roba. Siccome quello che c'è dentro è più che sufficiente per ha me. Ha ragione. E allora niente. Ecco, cosa voleva dire? Solamente dire questo. Negli Stati Uniti il giorno della svendita non è due volte l'anno. Sì. A volte può essere anche una volta a settimana, una volta al mese. E senza problemi. Cioè, se io ho preso un vestito a saldo e non mi è andato bene, lo riconsegno. E loro mi ridanno i soldi del prezzo pieno. E lo so, Anna, gli Stati Uniti per tante cose sono il paese dell'estrema flessibilità su tutto. Ecco. Poi, per carità, ci sono tanti vantaggi nell'andare a fare delle spese là. Ci sono tanti altri svantaggi nell'andare a vivere negli Stati Uniti. Detto questo, Anna, sentiamo Paolo Martinello, che ne pensa? Penso che si sta andando anche da noi verso una crescente flessibilità, ma per un motivo... che è internet. Bravo. Oggi chi vuole acquistare e poter cambiare la merce acquista su internet. Sotto Natale, adesso i dati sono ancora molto freschi, ma Natale di quest'anno si è registrato intanto una crescita degli acquisti online, e questo è abbastanza fisiologico, positivo, eccetera. Ormai sono più di un quarto gli italiani che acquistano regolarmente online, ma l'acquisto natalizio online presentava questo particolare vantaggio dato dal fatto che se poi il regalo, soprattutto quando si tratta di regali ad altre persone, non andava bene, entro i 14 giorni viene rispedito e vengono restituiti i soldi o eventualmente cambiato il prodotto. Ora, questa qui è per legge, mentre diciamo il quadro giuridico dell'acquisto tradizionale è esattamente quello che diceva il collega prima dei Confcommercio, negli acquisti online io ho diritto di ripensarci. Ora, questo secondo me produce una pressione sul commercio tradizionale. Ah, ma Soletti lo sa bene, infatti competitivo qua... dovrà sempre di più accettare non come una gentile concessione, un favore, quella possibilità di cambiare il prodotto, ma come un fatto inevitabile per essere concorrenziali con, certo, le vendite online. Voglio dare anche, come si dice, una botta al cerchio e una alla botte anche come consumatori, però non entriamo sempre in un negozio con l'idea di essere dei rompiscatole. La prima cosa è pretendiamo e avanziamo dei diritti ancor prima di avere le idee chiare su quello che vogliamo comprare, prima, insomma, l'idea è di entrare, di divertirci, fare l'acquisto di una cosa che ci serve, non di entrare in un negozio con l'idea di contestare immediatamente tutto quello che verrà fatto. Massoletti, le è piaciuta la mia difesa? Così, no, perché sennò qua sembra sempre che facciamo la parte assolutamente del consumatore. Noi siamo dalla parte del consumatore, però anche i commercianti sono dei consumatori. Sì, è vero. Ecco, infatti, non è che io stesso, pur avendo, diciamo così, un'attività, io vendo abbigliamento da donna, quando acquisto le cose per me vado in altri negozi, pertanto io stesso riconosco in me alcuni comportamenti che magari alcuni altri consumatori. Ci racconti qualche aneddoto, che cosa le è capitato di così intercettare nel comportamento magari a volte un pochino opaco, non troppo corretto, di qualche collega? Anche lei va a guardare sugli scontrini esattamente se lo sconto che viene praticato è corretto rispetto al prezzo originale? Certamente che vado, lo faccio assolutamente, perché guardi, mi è successo recentemente in un grande magazzino molto importante, che sono andato fiducioso perché ho ricevuto via mail una pubblicità che dice sconto sull'abbigliamento del 30%, arrivo lì e il mio prodotto, quello per cui io sono andato lì, non era scontato perché quel marchio è esattamente quello che ci raccontano in tanti, presidente Massoletti, sempre quello che vogliamo, guarda caso è quello o che ha lo sconto più piccolo, quello che non è scontato per niente, e vabbè, cioè, può succedere, no. Ecco. Allora qualcuno ha anche ragione nel, come dire, con una maniera un po' maliziosa di pensare che vengono scontati tutti magari i capi, non di quella della stagione attuale, ma di 2-3 stagioni precedenti. Poi anche quello, non che non si possa fare, ma la merce deve essere ben visibile, quella che appartiene appunto a collezioni precedenti. Insomma, sono raccomandazioni che diamo ogni anno per 2 volte l'anno, per cui speriamo ormai di averle ben messo in testa a tutti i nostri ascoltatori consumatori. Io tra poco devo chiudere perché abbiamo la borsa, l'ultima parola la concediamo a Luca da Firenze, che saluto. Luca, buongiorno, appena tornato dall'Inghilterra, ci faccia sognare, cosa ha fatto? No, infatti volevo portare un po' la testimonianza dell'Inghilterra, mia moglie è inglese e regolarmente passiamo in una sala lì, e lì appunto i saldi, diciamo, iniziano già il 24 di dicembre, infatti abbiamo fatto un giro così, siamo rimasti abbastanza sorpresi, come d'altronde tutti gli anni, diciamo a livello generale. E poi invece in realtà i saldi veri e propri iniziano il 26, Santo Stefano, che lì si chiama Boxing Day, dove le grandi catene retail praticamente iniziano un saldo proprio totale di tutta la merce che hanno nei magazzini, con sconti, diciamo, abbastanza sorprendenti per quello che si vede a confronto qua in Italia. Io, come si sente, abito a Firenze, per cui diciamo il commercio fa parte un po' della realtà della nostra città, con la sua tendenza turistica, insomma. Luca, grazie per la sua testimonianza. Purtroppo devo salutarla, ma insomma, lui diceva si comincia un po' prima in Inghilterra, ma si comincia molto prima anche su tante altre cose. Già a fine agosto i magazzini di Harrods sono ben agghindati con gli alberi di Natale e tutte le ghirlande natalizie, per cui insomma là ci sono delle pratiche diverse, come ci raccontava anche Anna, su quello che si fa negli Stati Uniti. Paese che vai, usanza e sa che trovi. Grazie a Carlo Massoletti, in bocca al lupo per posso questa dire, posso dire due parole, Fef, certo, Fef. è il modello di business che è diverso. I ricariti in Gran Bretagna sono molto più alti che negli Stati Uniti e in Italia. A parità di prodotto, il prodotto costa 20-25% in più in partenza. Per cui si possono permettere uno sconto più importante. Grazie, sì. Grazie a Carlo Massoletti. Grazie Paolo Martinello, grazie, la riaspettiamo presto. Se l'anno inizia così con lei, noi la rivolgiamo molto più spesso anche nel corso dell'anno, mi raccomando. Grazie. Tanti auguri. Ci fermiamo, adesso c'è la borsa, tra poco. Cuore e denari. Oggi è l'occasione della festa dell'Epifania, torniamo a parlare di doni. Intanto potete intervenire anche su questo tema, 800 24 0024, il numero verde a vostra totale disposizione. Prima di parlare della nostra e della vostra calza della Befana, raccontateci che cosa ci avete trovato dentro, parliamo dei doni per eccellenza di questa festa. Oro, incenso e mirra, quando i re magi, seguendo la stella cometa, si recarono a rendere omaggio a Gesù bambino, nato da pochi giorni, gli portarono, come tutti sanno, oro, incenso e mirra. Per gli antichi queste tre sostanze erano non solo preziose, ma quasi miracolose, ed il loro uso, anche a scopo terapeutico, si è protratto fino ad oltre il Medioevo. Quali sono i doni per la salute e il benessere che si celano, che si nascondono in questi tre regali dei magi? Ne parliamo con un esperto che peraltro ha scritto sul suo sito un commento che adesso vi andrò a raccontare. Il nostro primo ospite per questa parte è il dottor Ciro Vestita, medico dietologo dell'Università di Pisa. Buongiorno e auguri, dottor Vestita, ben arrivato. Salve a lei, buongiorno. Beh, io ho la mia personale opinione che il vile metallo, cioè l'oro, a Gesù non interessasse. Secondo alcuni storici, questa polvere colorata che arrivò era la curcuma. La curcuma, noi sappiamo tutti, essere una spezia importantissima, soprattutto nella profilassi di tante patologie tumorali. Immaginiamo che lì dove viene usata molto, ad esempio in Indonesia, la percentuale del tumore alla prostata è del 2%, qui invece in Europa siamo al 12%, quindi una polvere miracolosa, non certo oro, ma secondo me era la curcuma. Aveva tratto in inganno probabilmente, dottor Vestita, il colore, che comunque è simile a quello dell'oro. Beh, ma soprattutto il nostro Gesù non penso che interessasse questo metallo. Aveva altri pensieri per la testa in quel momento, sia lui che la sua famiglia. Dottor Vestita, noi condivideremo il suo commento sul suo sito molto volentieri sul nostro profilo Facebook, per tutti i curiosi e gli amanti della curcuma. Posso aggiungere, certo, sono le altre due piante, l'incenso, altri non è che la boswellia. Attenzione, la boswellia è una pianta usatissima in fitoterapia per due motivi: combatte moltissimo le patologie infiammatorie articolari e soprattutto è utile per la terapia della colite ulcerosa. La mirra viene molto usata ancora per creare degli anestetici, veniva usato al tempo dei romani come un grosso antidolorifico. Ecco che il dottor Vestita lo stiamo perdendo, ne eravamo consapevoli perché è in viaggio in treno, però credo che intanto le informazioni fondamentali su oro, curcuma, incenso e mirra ce le abbia date. Adesso vediamo se riusciamo a ripristinare appunto il collegamento telefonico. Volevamo fare un piccolo approfondimento sui doni tradizionali che i re magi, in questa giornata così speciale nella tradizione, appunto portano a Gesù bambino: oro, incenso e mirra. Adesso vediamo se lo recuperiamo, altrimenti andiamo avanti con l'altra parte della nostra trasmissione dedicata invece al contenuto della calza della Befana. Avete sentito anche nel nostro giornale radio, ci siamo occupati dell'indagine che è stata diffusa, del sondaggio che è stato diffuso stamattina da Confesercenti sui consumi appunto di questa giornata. A parte i doni che vengono portati dalla Befana, ma naturalmente anche mamme e papà regalano in questa giornata qualche cosa a figli e nipoti, e anche in questo caso portando tutto in una tipica calza di questa giornata. E adesso stavo recuperando appunto l'indagine di Confesercenti che ci racconta che una quota quattro volte superiore a quella di coloro che sceglieranno di regalare un giocattolo regalerà invece dolci. La spesa media prevista per quest'anno, pensate, di 64 euro a testa, ed è pure in leggero calo rispetto all'Epifania del 2015, ma insomma 64 euro per la calza dell'Epifania mi sembra un dono tutt'altro che disdicevole. Però ecco, ci saranno, secondo Confesercenti, più dolci che giocattoli, ed è un'inchiesta leggermente diversa rispetto a quella che invece matura dall'indagine appunto di Coldiretti, che ci racconta che invece dei dolci si preferiranno fichi, prugne secche, nocciole, noci, una scelta in linea con cuore e denari. Allora direi di cominciare subito a commentare il contenuto della calza della Befana con la professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano, responsabile della sezione di medicina dell'esercizio all'Humanitas. Professoressa Lucini, devo condividere con lei gli auguri che ci stanno arrivando in questa giornata, che è anche un po', perché siamo un po' tutte befane. Vanno benissimo. Salutiamo anche la befanina che non è con me questa oggi, che è Nicoletta. Che... Da Nico, ci sono tanti auguri anche alla Nico. Allora, tra l'altro abbiamo recuperato il professor Vestita. Dottoressa Lucini, lo ascolti con... Ecco, esatto. Oh, okay. Completiamo l'indagine su oro, incenso e mirra. Dottor Vestita. Sì, allora la mirra, dicevo, che è un antidolorifico molto usato al tempo dei romani. Dicevo appunto che mirrato era il vino che fu offerto dal soldato pietoso romano a Gesù sulla croce per lenire i suoi dolori. Attualmente dalla mirra vengono estratti molti antidolorifici, antietici. Quindi vediamo che piante medicali di 4-5 mila anni fa possono ancora essere attuali, e gli effetti collaterali, credetemi, sono veramente piccoli. Soprattutto la boswellia, nelle terapie importanti come artrite reumatoide e colite ulcerosa, ha veramente dei piccoli effetti collaterali. Ma certo, possiamo assumerla anche individualmente, dottor Vestita, andarla a comprare? Dunque, che no, ne so. Ci sono piante queste che vanno sempre usate sotto controllo medico, però quello che vorrei dire è questo: in un'artrite reumatoide pesante, dove siano stati già usati molti farmaci, si può tentare una terapia naturale. Quello che noi vediamo è l'immediato abbassamento degli indici infiammatori e soprattutto un miglioramento della situazione dolorosa. Quindi conviene provarle perché, ripeto, gli effetti collaterali sono inferiori notevolmente ai farmaci ufficiali. Dottor Vestita, l'oro curcuma, lei come la consuma? La curcuma, attenzione, è molto delicata. La curcuma sola non funziona, e infatti in Oriente usano il curry. Perché? Perché la curcuma, per funzionare, ha bisogno della piperina presente nel pepe nero. Bellissimo il libro del professor Veronesi a questo proposito, l'alimentazione anticancro del nostro professore. Quindi va sempre usato il curry, e il curry va usato ovunque, soprattutto per i bambini. Un bambino a 3 anni può già mangiare un risotto col curry. State tranquilli che se lo fate giornalmente, difficilmente il bambino presenterà le patologie raffreddative tipiche dell'asilo o della scuola, che sovente accadono. È una grande terapia, con effetti collaterali zero. Certo, bisognerà vedere se il gusto sarà di suo gradimento, ma insomma... Bisogna abituare i bambini piccoli. I bambini indiani non credo che abbiano... La State University, la più grande pediatria del mondo, ha proposto una terapia naturale particolarissima, migliore per la tosse catarrale del bambino piccolo: una tassa di latte, miele e salvia, piuttosto che tanti prodotti di banco col destrometotorfano come antitussivo. Quindi perché non usarli? Dottor Vestita, torneremo naturalmente molto presto con lei per le sue spiegazioni appunto su questi argomenti, che sono sempre molto appassionanti. La lasciamo al suo viaggio. Intanto ritorno alla professoressa Daniela Lucini. Un pugnetto di curcuma nella calza della Befana, perché no? Perché no? Si può sempre provare, si può sempre vedere. Magari un po' qualcuno come ce l'ha anche trovata, esatto. Esatto. Allora, torniamo invece a quella che molti ascoltatori ci stanno raccontando appunto di aver o confezionato o di aver trovato, perché poi tra l'altro, a prescindere dall'impegno che spendiamo in questi giorni per i nostri bambini, figli o nipoti, è chiaro che anche agli adulti fa piacere trovarsi il regalo conclusivo che porta a chiusura tutte le feste, tutto questo periodo di festa. Allora, dicevamo, Coldiretti sostiene che quest'anno si punti molto su fichi, prugne secche, nocciole, noci, una scelta, ricordavo io, in linea con cuore e denari, che probabilmente ha composto anche, professoressa Lucini, molti cesti natalizi. Io ho fatto caso, mi sono arrivati molti regali, sono una ragazza fortunata, molto meno torrone quest'anno, non l'ho trovato quasi da nessuna parte, il panettone, il normale, molti regali di questo tipo. Cosa sta cambiando secondo lei? Ma secondo me incomincia anche un po' la cultura delle persone su alcuni cibi un pochettino diversi, noci, fichi secchi, prugne secche vanno un pochettino di moda in questo momento, forse anche perché per fare un qualche cosa di diverso si ricorre a queste cose. Diciamo che sono dei prodotti che vanno bene, vanno presi con attenzione. A me molti pazienti dicono sì, le noci, le nocciole, le prugne secche vanno benissimo, ne mangio tantissime. Attenzione che le calorie qua... Brava, perché indubbiamente la frutta secca fa bene, nel senso che contiene antiossidanti, contiene un pochettino di proteine, contiene fibre, va bene, ma ha un potere calorico legato proprio alla composizione in grassi, in oli e un po' in carboidrati che è elevata. Quindi il concetto è, bisogna saperlo e bisogna prendere nella quantità giusta e al momento giusto. Brava. Quindi quindi non è tanto io mi mangio le noci come se fossero acqua fresca, questo no, perché prendi una marea di calorie, ma ad esempio a colazione, al posto del croissant pieno di grassi, mi prendo dei cereali integrali piuttosto che uno yogurt e ci metto dentro noci, mandorle, eccetera, eccetera, allora mi va benissimo. Ecco, a prescindere dall'apporto calorico, perché ci siamo già soffermati subito sull'aspetto, tra virgolette, problematico del consumo di nocciole e noci, andiamo invece alle proprietà benefiche, professoressa Lucini. Fanno bene, lo abbiamo ripetuto tantissime volte. Sì, l'abbiamo ripetuto tante volte. Il perché è che contengono molte sostanze antiossidanti, quindi le sostanze antiossidanti sono, diciamo così, delle sostanze tipo vitamine o cose di questo genere che aiutano il nostro organismo a riparare, possiamo usare questa espressione, alcune, diciamo, cose che non vanno bene legate con l'infiammazione, quindi combattono, ci aiutano a combattere tutta una serie di patologie, quelle di tipo infiammatorie, cardiovascolari e quant'altro. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa per cui vanno bene è che hanno un quantitativo di proteine non esagerato, non paragonabile a quello della carne o dei legumi, ma sicuramente significativo. E quindi possono essere d'aiuto anche per questo tipo di cose. Quindi queste sono le due ragioni principali perché vanno bene. Poi sono anche buone, quindi vale tutto anche per le mandorle, tutto questo ragionamento? Tutto questo ragionamento vale anche per le mandorle sostanzialmente. Poi ci possono essere un pochettino di differenze tra la noce e la mandorla, l'arachide in genere, però ci può essere. Ecco, un'attenzione è quella che tutto ciò vale se però io prendo queste sostanze, questi alimenti naturali. Se io prendo le arachidi salate come aperitivo, se io prendo le mandorle con il croccante sopra, non va bene. Infatti, allora speriamo che il buon senso abbia già fatto intuire ai nostri ascoltatori sotto che forma questa frutta secca appunto va consumata. Detto questo, ogni tanto un regalino ce lo possiamo fare, ma sempre con moderazione. Allora, intanto noi abbiamo adesso di nuovo l'appuntamento con le strade e le autostrade, dopodiché ritorniamo ad esaminare il contenuto della calza della Befana. Chiaramente raccontateci anche la vostra, come è composta, come avete composto quella dei vostri bambini, se avete fatto anche voi la calza della Befana insieme a quella che la stessa Befana ha fatto trovare appesa sul camino, sul lettino questa notte, e oltre a quella dei vostri bambini raccontateci anche se a voi adulti ne è arrivata una, con che contenuto alimentare, in particolar modo tutti i cioccolatini o c'era anche dell'altro. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, se volete scriveteci al 349 238 6666, leggiamo i messaggi, leggiamo anche WhatsApp. A tra poco. Cuore e denari. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con la calza appesa al collo, col carbone, col ferro e l'ottone. Beh, il carbone può essere anche dolce, ce ne sono di vari tipi in commercio, professoressa Daniela Lucini, c'è anche quello, inserire con moderazione nella calza. Attenzione, perché il carbone è tutto zucchero. Quindi è una di quelle cose che diciamo sono proprio vietate. Ci sono un po' che sono completamente vietate, lo zucchero bianco o lo zucchero nero di qualsiasi colore è una di quelle cose che meno ne mangiamo, anche se non ne prendiamo, meglio è. finito. Allora, fichi e prugne secche, datteri, tutta questa robina qua che pure ci può tutta capitare. Questa robina sono teoricamente frutta, ma molto teoricamente perché contengono tantissimi zuccheri. In questo caso è fruttosio, è un pochettino meglio che non quella del carbone, intanto per intenderci, però hanno comunque un potere calorico importante. Hanno anche delle fibre, o logicamente, però sono proprio quelle cose che possiamo prendere ma con molta molta attenzione, quindi è come se fosse un dolce buono, però come calorie ne hanno veramente Infatti. Tante. Vale sempre la regola, secondo lei, per cui anche un prodotto di questo tipo, del quale in molti sono veramente ghiotti, io non ne sono particolarmente appassionata, la dico verità, ma c'è chi invece proprio approfitta di questo periodo per gustarseli di gran lena, vale sempre la regola di magari concentrare un po' il consumo a colazione anche di questi? Sì, perché diciamo così, la colazione è il momento in cui io poi ho tutta la giornata davanti e posso anche consumare un pochettino le cose che ho preso. Se invece le prendo a fine giornata, finisce che l'organismo, non avendo lo stimolo per utilizzare, trasforma tutti questi zuccheri in grassi che mi vanno nelle riserve. Chiaro che però vale sempre la regola della moderazione, quindi al posto di altro, in quantità ovviamente ridotta, meglio magari a colazione che non in altri certo. momenti della giornata. Professoressa, però veramente sì. stanno attenti a quanti. I bambini e la frutta secca, ecco, c'è questa bella domanda di un ascoltatore al 349 o di un'ascoltatrice al 349-238-6666, perché effettivamente un po' chiaramente per problemi di masticazione magari è ovvio che è meglio non fargliene consumare, non lo so, quando sono porto... bambini da che età, quindi un conto, diciamo così, un bambino che ormai ha raggiunto una capacità di masticazione pari a quella dell'adulto, allora è già una cosa diversa. Se io con bambino intendo un bambino molto piccolo, dove ho il rischio che se gli do una mandorla me la manda giù intera, con il rischio di soffocamento eccetera eccetera, allora è un altro discorso. Quindi se sono bambini molto molto piccoli, lì io non sono un'esperta, è meglio chiedere a un pediatra. Se sono bambini che hanno superato l'anno e mezzo, io posso magari rompergliele e quindi possono mangiarle in questo modo. Se sono bambini ormai più grandicelli, che quindi hanno delle capacità di controllo della deglutizione e masticazione normale, allora si insegna loro a masticarle bene, oppure le si rompono e si possono dare. Diciamo che insegnare loro a mangiarle al momento giusto e nella quantità giusta e soprattutto al posto di altri tipi di dolciumi o snack anche salati può essere un'idea, però sempre mai, cioè facendo passare l'idea, puoi mangiarne quanta ne vuoi. Lo rilevano anche le associazioni di rappresentanza del mondo dell'agricoltura. Professoressa Lucini, un altro regalo molto gettonato da qualche tempo a questa parte è il miele. Ne troviamo peraltro anche di gusti di tantissimo tipo, non ce n'è solamente più un barattolo o la cacio al mille fiori tradizionali, appunto, di qualche tempo fa. Adesso ne parlavo proprio con una collega l'altro giorno, molto appassionata, Alessandra Tedesco, che mi diceva, insomma, a me piace l'amaro, il castagno, la melata di bosco, ce ne sono davvero di gusti che accontentano tutti. Ecco, in questo caso, se lo trovassimo nella calza della Befana, allora, lei anche che dice? Questo va bene, dobbiamo sempre stare attenti a usare le cose dette prima. Il miele contiene comunque degli zuccheri, dei carboidrati, un po' diversi da saccarosio normale, però sono comunque sempre zuccheri, e non è che il miele posso mangiarne quanto ne voglio perché intanto non è zucchero, lo contiene lo stesso, indubbiamente meglio dello zucchero bianco, sia per dolcificare sia per gratificarsi. Il concetto è la solita cosa, con moderazione, quello veramente buono, impariamo proprio a sentirne il gusto, per cui quello di castagno è diverso da quello di mille fiori o diverso dall'acacia, per ogni cosa il suo miele giusto, però con moderazione. Allora apriamo adesso uno dei nostri capitoli preferiti, professoressa Lucini, sì. che come lei immaginerà è quello che è dedicato al cioccolato. Questo è uno dei capitoli che è importante e che tutti adorano, e credo che il cioccolato sia proprio l'esempio dove dire poco ma buono è proprio la frase proprio per il cioccolato. Oggi come oggi abbiamo una quantità di cioccolati pazzesche, che vanno dal cioccolato vero a cose che vengono chiamate cioccolato ma che cioccolato non sono. Ci dice qual quindi, è quello vero secondo quello la vero sua concezione? È quello amaro, è quello che contiene vera polvere di cacao. Quindi bisogna imparare bene a leggere le etichette. È scritto chiaramente? Deve essere scritto proprio cacao. In che tipo di quantità, stando attenti a tutta quella serie di grassi che adesso vengono aggiunti, che vanno dall'olio di palma piuttosto che il burro di cacao, piuttosto che robe di questo genere, che invece non sono proprio adatte per la nostra salute. Quindi bisogna imparare a guardare quella che è la percentuale di vera polvere di cacao. Quindi di solito nel cacao amaro queste ce n'è di più. Cacao al latte, cacao dolci hanno invece molto spesso altre cose aggiunte. Quindi che cosa deve un attimino un po' metterci sull'attenti, ecco, quando leggiamo l'etichetta? Quando c'è scritto burro di cacao, quando c'è scritto invece olio di colza, quando ci sono scritte concentrati di latte, quando ci sono scritte tutta una serie di cose diverse. Diciamo che comunque, tanto per far rendere le cose semplici, quando è un cacao amaro, nero, fondente, con una percentuale alta, ci avviciniamo di più a quello che va bene. Un cioccolato bianco, un cioccolato al latte, difficilmente avranno delle grandi quantità di cacao puro. Allora, per i più pigri, prima di andare a capire cosa possiamo in ultima istanza aggiungere nella calza della Befana, magari ci suggerisce qualche ascoltatore un bel abbonamento per una palestra, ha sollevato un po' di dibattito fra gli ascoltatori, professoressa Lucini, la questione della dolcificazione del caffè, del tè, eccetera. Allora, io sono una, come molti ascoltatori, che appartiene alla corrente di coloro che è proprio amaro, non ce la fa a mandarlo giù, non c'è verso. Ho ridotto al minimo, ma un pochino devo dolcificare. La canna è uguale allo zucchero, qua c'è sempre un gran dibattito. Che cosa mi porto dietro per dolcificare un po', perché proprio l'amaro non mi piace? Allora, se proprio l'amaro non piace, uno dei modi è di spezzare l'amaro, ad esempio, se parliamo di caffè, con un pochettino di latte. È un modo per togliere il proprio gusto amaro e nel contempo non aggiungere degli zuccheri. Quindi questa è la prima cosa. Se invece una persona vuole il nero piuttosto che voglio il tè senza il latte, allora qui possiamo ragionare, abbiamo tantissimo, non ci sono delle grandissime certezze. Di sicuro lo zucchero bianco, il classico zucchero bianco, non è l'ideale. Attenzione però che lo zucchero di canna, di diversità come potere calorico, non è che ne abbia tantissimo. Il fruttosio può essere meglio per certi tipi di aspetti, ma può essere sempre lavorato e come calorie è uguale. Il miele, torniamo a quello che ci siamo detti prima, sicuramente più naturale, meno lavorato, ma ha comunque un potere calorico importante. I dolcificanti, qui cioè può essere un punto di domanda, diciamo che da un punto di vista medico, oggi come oggi, l'assunzione di basse quantità di dolcificanti, basse cosa vuol dire? Una o due pilloline durante la giornata, non ha portato a vedere che ci siano dei problemi per la salute. Se le quantità invece sono molto alte, il discorso può essere diverso. Devo dire che per il tema dolcificanti, insomma, qua è sempre chiaramente un'interpretazione. Un'interpretazione personale. Secondo me alterano completamente il gusto di tutto, hanno un sapore particolare. Per cui sono anche un po' caduti in disgrazia, ecco, per questo. Esatto, anch'io sono del parere di dire è meglio magari non mettere nulla e cercare di abituarsi un pochettino, o cercando di spezzare veramente con latte o con cose di questo genere. Benissimo, professoressa Lucini, noi abbiamo terminato, lo spazio a nostra disposizione. Lei quest'anno che cosa si augura per questo 2016 per la salute dei nostri ascoltatori, che vogliono sempre di più mangiare bene e ascoltano tutti i nostri consigli? In 10 secondi. Allora, in 10 secondi è di darsi un proposito semplice, piccolissimo, però di portarlo a termine. Che sia, che ne so io, quest'anno non uso più lo zucchero bianco, quest'anno mi cammino 10 minuti in più tutti i giorni, o cose di questo genere, piccolo ma da portare a casa. Esatto, oppure devo perdere 10 kg, cominciamo col perderne 2, che è già molto. Grazie. Cominciamo a perderne mezzo. Grazie, professoressa Lucini. Buona Befana a tutti. Anche a lei, buona giornata. Noi ritorniamo domani con Nicoletta Carbone, buona Befana a tutti!